Pubblicata sulla rivista di poesia contemporanea Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia di Luca Giambonino, dal titolo Autunno. Una marea di foglie sono oggi i nostri bei viali, intrise son d'acqua e scivolosa l'inaccorto piede, è autunno ormai su questa città, e i colori quelli sono e non cambiano. Presto vedremo la prima neve imbianchiare i tetti e tutto sarà gelo.